Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Subito la mail: un abuso al giorno @radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri. Lo trovate sull'homepage del Sole 24 Ore digitando un motore di ricerca, e se lo farete in questi giorni troverete un approfondimento del tema che abbiamo cominciato a trattare ieri e che oggi proseguiamo nell'approfondimento. Allora, ricorderete che abbiamo intervistato Frediano Manzi, simpatico e coraggioso presidente dell'associazione milanese SOS Racket e Usura, ormai diventato, come dire, una persona famosa in tutta Italia perché ha documentato con video, con parecchi, numerosi video, quello che accade quando si vuole entrare in possesso abusivamente, in maniera delinquenziale, di un alloggio delle case popolari di Milano. Ma questo non accade soltanto a Milano. Voi sapete che nel passato con questa trasmissione abbiamo affrontato il caso di Napoli, abbiamo affrontato il caso di Palermo, abbiamo affrontato il caso di Roma. Qual è stata il colpo, diciamo così, il coup de théâtre, come direbbero i francesi, di Manzi? È stato videoregistrare la cosa e quindi testimoniarla sul nastro. Allora, oggi riprendiamo il filo logico di questo discorso intervistando un affittuario, vale a dire una persona che risiede da alcuni anni stabilmente in via Padre Luigi Monti, zona Niguarda, a Milano, e che quindi può testimoniare quello che è il clima che si vive in quella zona, dove le case popolari spesso sono oggetto di compravendita delinquenziale. E abbiamo collegato con noi questo radioascoltatore che ci ha contattato, che siamo ben felici di mantenere nell'anonimato proprio perché è delicato il tema che affrontiamo, e lo chiameremo con un nome di fantasia: Ernesto. Buongiorno Ernesto. Buongiorno. Allora, lei da quanti anni abita in queste case popolari? Un po', 5, 6 anni, 10? Una decina d'anni che abito lì. Una decina d'anni. E allora, ci racconti com'è cambiato da quando lei abita lì, se qualcosa è cambiato, nel clima che si vive in quell'area? Ma da quando io sono lì e vivo lì, la situazione dal mio punto di vista è sempre andata poi peggiorando sempre di più, con un clima molto pesante dal punto di vista dell'abitare in quella via. E negli anni gli episodi di sopruso, di sopraffazione, di abuso da parte di alcune persone erano ormai quotidiani, all'ordine del giorno, persone che non sono in stato di necessità e prendono una casa perché è vuota, perché il Comune di Milano lascia le case vuote 5, 6, 7 anni. Le persone in stato di necessità che dormono in macchina un giorno si alzano e buttano giù la porta. Qua siamo di fronte invece a persone che ormai hanno installato tutta la loro famiglia, nonni, zii, cugini, nipoti. Sono 30 anni ormai che hanno occupato, perché l'occupazione risale al 1980. Le vorrei chiedere questo: chi gestisce il racket? È una sola famiglia? Sono più famiglie? È una famiglia allargata, come sta cercando di spiegarci? Vale a dire, qual è la geografia economica del racket nelle case popolari di Milano? La geografia economica, divertente, è che parliamo di un nucleo allargato dal punto di vista familiare, che comprende diversi cognomi, perché sono poi le figlie sposate o convive, insomma, con figli, nipoti, eccetera. Niente, parliamo di una 25 persone che non lavorano, che si mantengono di espedienti, che la mattina alle 10 giocano a carte al bar, qualsiasi affare è nelle mani loro, e ovviamente tutto ciò avviene alla luce del sole perché sono impuniti. Ecco, vorrei farle una domanda. Lei giustamente dice accade alla luce del sole, non certo da oggi, sicuramente da quando io abito lì, e chissà, forse anche da prima, perché la prima denuncia fatta dagli abitanti di via Padre Luigi Monti risale al 1996, una denuncia molto dettagliata e protocollata al Comune di Milano, parliamo del 96. Quindi le cose sono note e chiare a tutti quanti, caso vuole che nel 96 arriva decorato a fare il vice sindaco con i suoi proclami di pulizia e di ordine di sicurezza, si, con la delega alla sicurezza pure il vice sindaco, e lui sa tutto e non interviene. Ecco, noi cercheremo quindi decorato perché non è la prima volta che lo chiamiamo in causa. Ecco, ma questo vorrei sapere, Ernesto, torniamo alla domanda che avrei voluto fare prima, vale a dire, tutti sapevano e tutti sanno tutto, ma non c'è neppure un rappresentante delle forze dell'ordine che gira per quelle vie, non c'è nessun rappresentante delle forze dell'ordine, un carabiniere, un poliziotto, uno della guardia di finanza, che vede e sa quello che c'è. Insomma, c'è l'obbligo di denuncia penale, ma c'è sicuramente per i rappresentanti delle forze dell'ordine anche l'obbligo morale, giuridico, legislativo di interrompere questi traffici. Ma probabilmente credo che queste persone siano considerate dalle forze dell'ordine anche pesci piccoli, quindi la logica è quella di costruire poi queste arriveranno a Milano nei quartieri, ma in tutta Italia, a costituire una sorta di banlieue dove dentro c'è il peggio di pluripregiudicati, spacciatori, fai l'elenco del peggio, e poi verranno chiusi lì dentro, fanno comodo perché funzionano da... la gente quando vive in quelle condizioni ha paura, non è libera. Lei ha paura, e poi le vorrei chiedere un'altra cosa, oltre al suo sentimento, paura, timore, schifo, a parte la paura di cui adesso appunto ci chiarirà un po' meglio questo concetto, ha conosciuto, conosce persone che magari si sono rivolte a lei per dire ma conosci quella persona che può aiutarmi, ho saputo che qui si può contrattare a umma l'occupazione di una casa, ecco, ha incontrato queste persone e poi, ripeto, ha paura. Sì, la paura esiste, è uno strumento poi che viene utilizzato abbondantemente, no, in queste situazioni, perché fa comodo avere la gente che ha paura. Le persone quando hanno paura non sono libere, non possono esprimersi. Se io vado dalla signora che è allacciata abusivamente alla luce delle scale, ovviamente questa signora non paga la bolletta della luce, però pago io le spese condominiali e pago anche la sua bolletta della luce dentro nelle spese. Ma se io vado da questa signora e le dico basta, devi smetterla, questa mi dà due sberle e due pugni. Se vado ai vigili non escono, se vado alla polizia non arriva, e questi fanno assolutamente quello che vogliono. 6 mesi fa è stata occupata una casa, moglie, marito e 3 figli. Sono arrivate 2 pattuglie, il marito si è scagliato contro gli agenti pesantemente, ci hanno messo un quarto d'ora per fermarlo e mettergli le manette, l'hanno portato via e la signora è entrata in casa con i 3 figli. Il signore ha fatto 6 mesi di galera, è uscito e è tornato a casa. Quindi la responsabilità delle forze dell'ordine qui dov'è? È assolutamente, voglio dire, un'oasi di illegalità laddove invece dovrebbe esserci la legalità dello Stato. Ma poi Stato è una parola grossa, Stato vuol dire tutto, vuol dire comune, vuol dire amministrazione, vuol dire tenere tutti coloro i quali devono farlo gli occhi vigili su queste cose. Ma torniamo all'altra cosa che le domandavo. Lei ha conosciuto personalmente questi trafficanti, li ha evitati, e poi ha conosciuto invece persone che disperate le hanno chiesto: Ernesto, dammi una mano, come posso entrare in contatto con questa famiglia? O magari la famiglia riceve, come si può fare in un ufficio pubblico, no? Dalle ore X alle ore Y presso il bar. Certo, ricevono dalla mattina alle 9 alla sera alle 10 presso il bar Latteria di Pia Padre Luigi Monti. Il loro ufficio è quello. Ah, quindi sappiamo, magari non gli facciamo pubblicità. Ma torniamo a quello che le chiedevo prima. Qualcuno l'ha avvicinata per chiederle una mano? No. No, nel senso che io ho marcato molto decisamente la mia distanza da queste persone, cioè banalmente non hanno il mio saluto, banalmente se vedo qualche fanno qualcosa prendo il telefono e chiamo la polizia, è banale ma è così. Ecco, mi è piaciuta una domanda. Lei ha una grandissima forza perché anche denunciare in questa maniera, seppur criptata, è un gesto di forza e di coraggio, perché prima non è che ce ne fossero tante di queste testimonianze, ma al di là di questo ha fatto anche delle denunce in procura. Qual è stato il suo percorso? Bussare a tutte le porte possibili e immaginabili, dalla polizia municipale ai carabinieri, al prefetto, al questore, all'assessore competente, al vice sindaco, tempestando di telefonate, lettere, tutto, assolutamente, ma qua è una questione di dignità. Assolutamente. Un'ultima domanda, perché non se ne va da via Padre Luigi Monti? Purtroppo io non ho scelto di vivere in via Padre Luigi Monti, dopo 10 anni di bandi, dopo una separazione da mia moglie, e io sono venuto a vivere lì e non ho scelto, sono obbligato a stare lì perché non ho alternative. Bene, noi continueremo a tenere i riflettori accesi su questa vicenda e ovviamente ringrazio Ernesto per la sua testimonianza. Rimando al mio blog Guardio Ladri sul Sole 24 Ore. Grazie a Carmelo Lauricella in regia ed Antonella Migliaccio in redazione, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.